Benvenuti su Casa Luneas, web radio podcast, dove le storie prendono vita e la musica è un viaggio. Mettetevi comodi, il racconto sta per cominciare. Oggi facciamo un'immersione particolare, entriamo nell'universo narrativo di Virginia Luneas e, attenzione alla pronuncia, Luneas. Lo facciamo attraverso il progetto che presenta le sue scritture, Casa Luneas, che già dal nome insomma ci dà un'indicazione forte. Benvenuti in Casa Luneas, scritture senza tetto. Sì, un'immagine potente, vero? Molto. E per orientarci oggi abbiamo, diciamo, diversi materiali. Ci sono estratti da vari racconti. Il mare che non si vede, il tempo del padre, l'ultima sigaretta sulla terrazza, giusto, e poi la voce del vicolo, sotto il portico blu, e infine un racconto su cui ci concentreremo un po' di più, che è sotto l'ombrellone rosso. Esatto. Il tutto, diciamo, contestualizzato anche dalla presentazione del progetto Casa Luneas. Sempre Luneas, ricordiamolo. Mm-hmm. Allora, qual è l'obiettivo di oggi? Beh, provare a capire cosa lega queste storie. Lo stile, i temi che magari ritornano. L'essenza, forse. Sì, l'essenza. Esplorando questa collana chiamata sottopelle, che sembra molto significativa, e tenendo d'occhio appunto sotto l'ombrellone rosso. Proviamo a entrare in questa casa allora. Sembra esserci una coerenza, una sensibilità comune che va oltre la firma, no? Assolutamente. E partiamo proprio da lì, da Casa Luneas, scritture senza tetto. È, come dicevi, un'immagine forte. Sì. Cosa suggerisce? Beh, forse una scrittura che non vuole confini rigidi, magari libera da, diciamo, vincoli editoriali stretti, indipendente. Una casa aperta, quindi. Esatto, una scrittura che, sì, offre riparo, come una casa, ma senza muri che ti chiudono dentro. Magari più esposta, più permeabile alla vita, ecco. Permeabile, mi piace. E si collime bene, mi sembra, alla collana sottopelle, che viene descritta come fatta di racconti che, cito, non gridano, ma sussurrano. Appunto. Il concetto di sottopelle è, credo, centrale. Non è la scrittura che cerca l'impatto immediato, l'effetto wow, l'urlo. Certo. Ma cerca la risonanza interna, quella che senti appunto a fior di pelle o forse ancora più dentro. Sono, beh, frammenti di vita, momenti, che vibrano piano ma lasciano un'impronta che dura. Non si impongono, si insinuano. E questa idea dell'insinuarsi, del sentire profondo, ci porta subito a uno dei racconti, Il mare che non si vede. Qui l'ambientazione è già particolare. Una clinica sul mare, un luogo quasi sospeso. Sì. E il protagonista, Elias, è cieco. Però ecco, la sua cecità non viene presentata come una mancanza, come un vuoto, ma come una possibilità. Interessante. Sì, perché lui insegna agli altri pazienti a vedere. Ma come? Attraverso le parole. Descrive il mare che lui stesso con gli occhi non vede. E qui c'è già un ribaltamento notevole, no? La vista, che è il senso che usiamo di più, viene messa un po' da parte. Esatto. Non è una storia di guarigione fisica quella che ti aspetti magari in una clinica. È più un'apertura a un modo diverso di percepire. Elias non sta solo descrivendo il mare. Sembra quasi che lo restituisca agli altri. Lo rende accessibile in un altro modo. Proprio così. La sua cecità diventa una specie di lente di ingrandimento sull'interiorità. C'è una frase nel testo che lo dice benissimo. Quando perdi la vista, guadagni profondità. Non vedi più le cose, ma le senti. E ciò che senti resta. Quindi il sentire diventa più importante, più duraturo del vedere. Sembra di sì. Diventa una forma di conoscenza più intima, forse. Ma questa profondità che lui guadagna non rischia anche di isolarlo? O è solo una forza che crea connessione? Il testo dice che lui diventa uno specchio, un orizzonte per gli altri. Sembra quasi un maestro involontario. Beh, è un equilibrio sottile, immagino. Certo, la sua condizione avrà una sua solitudine intrinseca, ma il racconto la usa proprio per creare un ponte. Ah, ecco. Sì, perché gli altri pazienti, dice il testo, non cercano tanto una cura medica, cercano una voce. E la voce di Elias, che nasce proprio dalla sua non vista, diventa lo stimolo per la loro introspezione. Quindi non isolamento, ma un accesso a una dimensione condivisa, ma attraverso il sentire. Esatto. Pensa a quella scena, è fortissima, della ragazza che è appena diventata cieca. Piange quando sente Elias descrivere il mare. Oggi è grigio ma non triste. È come un uomo che pensa. E poi si appoggia per ore alla finestra. Lì c'è dolore, ovvio, ma c'è anche l'inizio di una connessione profonda che non passa dagli occhi. O quando guida gli altri a chiudere gli occhi a sentire il mare dentro di sé. Questa idea del sentire, che resta, che va più a fondo del vedere, mi sembra un tema forte, potremmo ritrovarlo. Cambiamo atmosfera però. Andiamo su un registro più intimo, forse familiare, con il tempo del padre. Sì. Qui il centro è la figura del padre, il ricordo, l'assenza, la riscoperta. E tutto ruota attorno a una data simbolica, il 19 marzo, la festa del papà. Esatto. Qui il tema è proprio questo tempo del padre, definito come quello che resta quando tutto sembra finito. Vedi, ancora qualcosa che non si vede, ma si sente. È vero. Il racconto tocca corde difficili, eh? Il dolore per la separazione dei genitori, vissuta da bambino, l'alienazione parentale, quell'essere tolti di mezzo, come dice il testo. Mamma mia. E il protagonista, che ora è adulto, separato a sua volta, si ritrova a rivivere in un certo senso la storia del padre. Riconosce un dolore simile, un'invisibilità simile. C'è un parallelismo molto forte, quasi un cerchio che si chiude. Però c'è anche una resistenza, mi sembra, una ricerca di radici. Quel dettaglio dei disegni di quando era piccolo conservati dal padre sul comodino come se fossero sacri. Sì, è toccante. È un segno concreto di quel tempo invisibile. E poi la presa di coscienza del protagonista. Capisce di non essere stato abbandonato, ma che lui e i fratelli erano stati portati via. Esatto. E c'è anche un paradosso quasi amaro, no? Lui fa l'avvocato. Magari ha scelto quella strada proprio per quella ferita lì. E si ritrova a combattere in tribunale dinamiche simili a quelle che ha subito. E nella vita privata le rivive? Sembra di sì. La frase chiave, secondo me, è: il tempo del padre non si cancella, si racconta. Cioè, l'unico modo per fare i conti con questo tempo sommerso è parlarne, dargli voce, ricostruire la storia. Riappropriarsene, insomma. Dalla memoria familiare così personale, scavata nel dolore, passiamo a dinamiche di gruppo, dove il non detto ha un peso diverso, forse più distribuito, ma altrettanto potente. Penso all'ultima sigaretta sulla terrazza. Ah, sì? 5 amici, una terrazza, un luogo che immagino pieno di ricordi condivisi. Una notte ventosa. Sembra proprio il set perfetto per far venire a galla verità nascoste. Sì, l'ambientazione qui è fondamentale, è quasi un personaggio. La terrazza, dice il testo, diventa un confessionale sotto le stelle. Bella immagine. Il vento, le luci della città in lontananza, il vino. Tutto aiuta a creare quell'atmosfera un po' sospesa che scioglie le lingue. E quello che viene fuori è pesante, eh? Amori mai detti, aborti nascosti, tradimenti. Lutti non elaborati, figli non riconosciuti. Esatto. È proprio il catalogo dei rimpianti, delle cose non dette che si sono accumulate negli anni. E colpisce proprio questo, l'accumulo. Il peso di anni di silenzi tra persone che dovrebbero essere intime. Mi sembra che i luoghi, prima la clinica sul mare, adesso questa terrazza esposta al vento, diventino quasi testimoni, catalizzatori di queste confessioni. Cosa ci dice questo sull'importanza dei luoghi per Luneas? Sembra che i luoghi non siano mai solo uno sfondo per lei. Respirano insieme ai personaggi, assorbono le loro emozioni, custodiscono le storie non dette. Come se avessero una memoria. Proprio così. La terrazza non è solo un posto dove trovarsi, è uno spazio quasi liminale, dove il passato irrompe nel presente. E quel vento che alla fine spegne l'ultima sigaretta non è solo un dettaglio. No. È un simbolo forte, di qualcosa che finisce senza fare rumore, ma lascia una traccia, una cicatrice dolce, dice il testo. C'è quasi un fatalismo dolciamaro in quella frase, di Marta. A volte la verità arriva quando non serve più. Questo tema del silenzio che comunica o del non detto che pesa, l'abbiamo visto con Elias sulla terrazza. E diventa quasi il protagonista assoluto in un altro racconto, La voce del vicolo. Qui ci spostiamo. Sud America, un vecchio cantautore, il maestro, con una chitarra muta. Esatto. Qui il silenzio è quasi assordante, paradossalmente. Il maestro non canta più, non suona, eppure la sua presenza nel vicolo è potentissima. Cammina e basta, cammina, e il suo passo diventa ritmo, il suo silenzio diventa strofa, è l'incarnazione dell'eredità invisibile. Non cerca un pubblico, ma lascia un'orma. C'è una ragazza che registra di nascosto la sua voce roca, e quella voce inizia a circolare, diventa memoria collettiva. È un concetto affascinante, no? Va un po' controcorrente rispetto a oggi, dove tutto è performance, visibilità, suono continuo. L'UNEAS ci suggerisce che il vero valore, la vera musica, sta da un'altra parte. Sembra proprio di sì. La frase che il maestro lascia scritta è emblematica. La musica è dove non la senti. Forte. Suggerisce che l'essenza vera della musica, o forse dell'arte in generale, non sta nel consumo immediato, nella comprensione razionale, ma in qualcosa che si deposita dentro, che va dimenticata nel modo giusto, dice, interiorizzata. Un'eredità che si trasmette sotto pelle, di nuovo. Appunto. E passa a quel giovane cantautore che non lo imita, ma continua il suo viaggio. Raccoglie frammenti di vita nel suo quaderno, senza cercare applausi. È il vicolo stesso che diventa custode di questo canto silenzioso. E questa comunicazione così sottile, quasi impalpabile, fatta di presenze, di silenzi, la ritroviamo, forse ancora più intima, più concentrata, a Napoli, in Sotto il Portico Blu. Sì. Due sconosciuti, incontri ripetuti, quasi casuali. Sguardi. E Napoli è uno sfondo discreto, eh? È evocata quasi solo dal colore insolito di quel portico, un blu sulla pietra vesuviana. E il portico stesso diventa una soglia. Una soglia tra cosa? Tra il fuori e il dentro, forse. Tra il visibile e l'invisibile. L'interazione tra i due protagonisti è quasi tutta fatta di sguardi, di silenzi. È un racconto bellissimo sul riconoscersi senza bisogno di parole. Sull'attesa, paziente, dignitosa. C'è una riflessione chiave lì. Le parole cercano di spiegare. Gli sguardi ricordano. Gli sguardi ricordano. Come se aprissero una dimensione di memoria condivisa, quasi preverbale. Esatto. Ma questa enfasi sugli sguardi, sul silenzio carico di significato, è una critica alla parola, che magari semplifica troppo o tradisce? O è più un invito a considerarla parte di una comunicazione più ampia? Io credo sia più la seconda. Un invito a riscoprire quanto comunicano le cose non dette esplicitamente. Non penso sia una negazione del valore delle parole. Anzi, vedremo come la scrittura diventa centrale in un altro racconto. Giusto? Le sfumature, ecco. E quella parola resta, scritta sul quaderno della protagonista, è minima, ma è carica di tutto il peso di quegli incontri silenziosi. E arriviamo così al racconto che volevamo mettere un po' più a fuoco oggi. Sotto l'ombrellone rosso. Anche qui un luogo preciso. Una spiaggia affollata, a Ferragosto. E un incontro tra due solitudini. Sì. Mi sembra che qui convergano tanti temi che abbiamo toccato. Il silenzio, la scrittura come ponte, l'incontro quasi casuale che diventa importante, il luogo. È un po' un esempio perfetto di questo stile, no? Ricordando sempre la pronuncia, l'UNEAS. Assolutamente. Questo racconto è quasi un distillato della poetica sottopelle. C'è un Ferragosto sospeso, dice il testo, non la solita festa rumorosa. E al centro un uomo solo con un quaderno e una ragazza sotto un ombrellone rosso. Un dettaglio di colore forte in mezzo alla folla. Lui non parla, scrive. Scrive pensieri, parole non dette. Lei lo osserva. Poi, in modo molto naturale, quando un foglio vola via, lei lo raccoglie, lo legge e si siede accanto a lui. È quasi il culmine di quella comunicazione oltre il verbale di cui parlavamo, vero? L'interazione qui si sposta proprio sulla pagina scritta. Il quaderno diventa il vero luogo dell'incontro. Proprio così. Il quaderno è il ponte tra queste due solitudini. Si crea un dialogo muto ma intensissimo, affidato alla scrittura. È un'intimità profonda che nasce senza parole dette a voce. E c'è quello scambio di battute scritte che è fondamentale. Esatto. Lei scrive, non serve parlare per capirsi. E lui risponde aggiungendo una sfumatura importante. Ma a volte serve parlare per non perdersi. Ah, interessante. Non è una negazione totale del dialogo verbale, quindi. No, affatto. È il riconoscimento che in quel momento, per loro, la scrittura è il canale giusto. Forse l'unico possibile per creare un contatto autentico. Ma c'è la consapevolezza che il parlare a volte serve a non perdersi. e quella parlare per non perdersi apre anche a un futuro, forse. Non è solo capirsi qui e ora, ma anche costruire un legame che magari può durare oltre quel momento, sulla spiaggia. Il biglietto che lei lascia alla fine. Ci sono parole che non si dicono, ma si lasciano scritte. Chiude il cerchio perfettamente. È la sintesi dello stile sottopelle. Un sussurro scritto, che però risuona a lungo. E allora, se proviamo a tirare un po' le fila di questo percorso nei racconti di Virginia Luneas, presentati da Casa Luneas, sempre Luneas con l'accento giusto, cosa emerge con forza? Beh, questa poetica dell'indicibile, del silenzio che parla, della memoria che lavora sotto pelle. Sì. La comunicazione avviene spesso per vie traverse, no? La cecità che apre al sentire profondo, il tempo del padre che si sente nel presente, le verità taciute che esplodono in un luogo carico di passato, la musica che si trova nel silenzio, gli sguardi che ricordano. Le parole scritte che creano ponti impensati, come sotto l'ombrellone rosso. Esattamente. E i luoghi, sempre presenti, mai neutri. La clinica, la terrazza, il vicolo, il portico, la spiaggia, sono come dei contenitori di senso, quasi coautori delle storie che succedono lì. C'è una sensibilità fortissima per come lo spazio influenza l'esperienza interiore. Assolutamente. I luoghi trattengono le storie, le emozioni. Sembrano avere una loro memoria che interagisce con quella dei personaggi. E questa attenzione costante ai dettagli sensoriali, che non sono la vista, i suoni, gli odori, le sensazioni tattili, il silenzio stesso, aiuta a creare questa atmosfera unica. Questa scrittura che ti chiede di essere sentita, più che capita con la testa. Quindi, cosa ci portiamo a casa da questa immersione? Forse un invito a riconsiderare il valore di ciò che è sommesso, di ciò che non si impone. Questi racconti non danno risposte facili, soluzioni. Aprono squarci su momenti di connessione umana profonda, spesso raggiunta proprio dove le parole mancano o si ritirano. È questo il cuore del progetto Casa Luneas, ancora Luneas, queste scritture senza tetto, così aperte. Si può avere un'idea anche visitando il sito www.casaluneas.it, immagino. Credo proprio di sì, l'essenza sembra essere questa. Valorizzare l'ascolto profondo, l'attesa, l'interiorità, la comunicazione autentica che può fiorire anche, e forse soprattutto, negli spazi lasciati vuoti dalle parole urlate. È una scrittura che chiede lentezza, attenzione. In sintesi, le scritture di Virginia Luneas, che ci arrivano tramite Casa Luneas, ci invitano a fare una cosa quasi rivoluzionaria oggi. Rallentare. Ascoltare i silenzi, i nostri e quelli degli altri. Guardare oltre la superficie scintillante. Sentire, appunto, sotto pelle. Azioni urlate, spesso superficiali. Cosa scegliamo di ascoltare veramente? Cosa ci resta dentro? Cosa ci nutre? Il clamore che svanisce subito o il sussurro che si deposita piano piano, come quello custodito in un quaderno su una spiaggia o sotto un portico blu o nel cuore di un vicolo o nel ricordo di un mare mai visto con gli otri. E noi? Noi quali storie stiamo scrivendo, giorno dopo giorno, senza parlare? Una domanda che risuona, decisamente. Bene, questo è stato il nostro approfondimento sui testi presentati da Casa Luneas, di Virginia Luneas. Grazie per aver ascoltato Casa Luneas, web radio podcast. Se le parole vi hanno toccato, tornate a trovarci. Ogni racconto è un invito a restare ed a raccontarsi. Casa Luneas è l'arte di raccontare. Un luogo libero, dove le storie parlano al cuore. Se vuoi sostenere questo viaggio, lo puoi fare ora. Clicca su Dona ora con PayPal, nella home page di casaluneas.it. Ogni gesto è una scintilla che tiene accesa questa arte di raccontare e la voce di Virginia Luneas.